molto più carine troverà. Puntata numero 1 di Firenze in vacanza, vizi e virtù dei fiorentini in ferie, un programma di Radio Big World, anzi il programma di Radio Big World da ascoltare sotto l'ombrellone, e non è importante che sia proprio l'ombrellone del mare, perché c'è anche l'ombrellone, quello della San Montana che teniamo nell'orto, oppure l'ombrellone di quelli che prendono il sole sul terrazzo in montagna. Io sono un provinciale, quindi sto cercando di educarmi a essere un pochino più cittadino, ma soprattutto occhio a incontrare i fiorentini in ferie, e per questo chiediamo alla nostra esperta di fiorentinità, che è Laura. Ciao e buone vacanze. Laura, già che abbiamo parlato di ombrelloni, e l'ombrellone ovviamente richiama il mare, le vacanze degli anni 80, le ferie per tutti, Alberto Sordi che con la macchina andava in gita a Ostia, ma per quanto riguarda i fiorentini, il dibattito principale probabilmente parlando di mare è Tirreno o Adriatico? Ma quando mai? Il dibattito principale è Versilia o Maremma. Sull'Adriatico non ci andiamo, è troppo lontano, non c'è neanche un buon motivo per andarci, abbiamo tutto qua sul Tirreno. Sempre per la nostra, per il nostro orgoglio di essere fiorentini, andiamo in Toscana, perché insomma noi siamo il capoluogo della Toscana. Se poi vogliamo spostarci di più, non andiamo certo sull'Adriatico. D'accordo, quindi insomma voi andate o in Versilia o in Maremma a fare gli spacconi. D'accordo, Versilia e Maremma, mamma mia, la Versilia è un posto interessante, si parla di Viareggio e di quello che gli sta intorno, però per esempio c'è anche Carrara e Pisa che gli stanno vicino. I fiorentini nel mare o al mare a Carrara o a Pisa ci vanno? No, non sono contemplato, te l'ho detto, Versilia o Maremma. Allora dipende, se tu vuoi il mare bello vai a Maremma, se tu vuoi la comodità perché è più vicino o vuoi andare sulla passeggiata vai in Versilia. Stop. Ma per Versilia che cosa intendi? Viareggio, Tompano, Forte dei Marmi, boh, forse anche Marina di Pietrasanta, insomma quelle zone lì, che però io non conosco molto bene perché sono sempre stata, come tu ben sai, per la Maremma, quindi... E parliamo di Maremma, allora. La Maremma effettivamente ha un mare bellissimo, è un po' più selvaggia, diciamo così, sì, rispetto alla Versilia, ma che cos'ha di bello che attira così tanto i fiorentini? Ha di bello la natura, il mare più pulito sicuramente rispetto alla Versilia. Ma ora, il fiorentino però, adesso, visto che si va un po' affittonate, in Maremma ha scoperto anche un luogo particolare. Ah, sì? Nonché, sì sì sì, si chiama il Nano Verde. Allora, il Nano Verde è semplicemente una baracchina che fa i cocktail, però è diventata così tanto famosa perché organizza anche concerti lì in pineta. Stiamo parlando del Parco Naturale della Sterpaia, vicino a Torremozza, quindi un posto con pochi divertimenti. Ecco, lì c'è questo Nano Verde dove si riversano tutti i fiorentini, anche dai 30 anni in su, quindi un posto un po' più per adulti che però non vogliono frequentare le località troppo da famiglia, e lì si fa mare e si fa poi l'aperitivo e il concerto, e lì è un covo di fiorentini. Però scusa tanto, voi che siete della capitale, noi abbiamo dei posti bellissimi per quello che riguarda il mare, cioè l'arcipelago toscano in provincia di Livorno, e in particolare la meta delle mete, l'isola d'Elba. Scacata dai fiorentini? No, assolutamente, assolutamente. L'isola d'Elba è molto frequentata dai fiorentini, anzi, direi è una delle mete preferite, però io ti stavo parlando di luoghi raggiungibili così anche per una toccata e fuga, un giorno o due. All'Elba si deve imbarcare, capito? Deve prendere il traghetto. Eh sì, ma se abbiamo più giorni ci andiamo all'Elba, come no, come no. Quindi l'Elba è comunque una tappa e una meta favorita per quello che riguarda le vacanze dei fiorentini. Sì, sì. Ma in tutto questo mare, hotel o campeggio, la vecchia pensione dove davano sia il mangiare sia la cena fatta con la vecchietta e con la famiglia che viveva lì, oppure il campeggio come va oggi con l'animazione. Il fiorentino giovane sceglie il campeggio e risparmia e si torna lì. Lo so che tutte le volte che ti faccio riferimento al risparmio ti fai un ghigno, però insomma, è vero, bisogna sempre farsi conti in tasca. E il fiorentino che già guadagna e che magari durante l'adolescenza ha fatto campeggio, insomma, ma poi è un po' una caratteristica di tutti, no? Più si cresce, più si vogliono le comodità, insomma, verso l'hotel, sì. Quindi è generazionale nei fiorentini la scelta tra il campeggio, che lascia più libertà anche al portafoglio, rispetto all'hotel, che ha le comodità ma che si fanno pagare, ovviamente. Allora, una domanda, Laura, sul campeggio, una domanda che, accende la mia curiosità, nel senso che in campeggio, va bene, si va in tenda, spesso si va in tenda, ma si va anche in roulotte o in camper, e da noi usa, in particolare, il camper, parcheggiarlo sotto casa per il resto dell'anno. Ma a Firenze, che già c'è problemi di parcheggio persino per i motorini, ma dove si mettono questi camper? Ah, rimessaggio dei camper. Io te lo dico perché sono figlia di camperisti e il camper sta a rimessaggio. Paghi un tipo 70 euro al mese e te lo tengono lì, uno spiazzo custodito vicino a Firenze. Sai quanti ce n'è? Quindi Firenze è circondata di rimassaggi pieni di camper che verranno usati sì e no 30 giorni l'anno. Sì, fantastico. Ma qualcuno lo tiene anche così per strada, io li vedo ogni tanto, però insomma tu ce lo terresti, io forse non starei così sicura. E allora ricordiamo agli ascoltatori di Radio Big World, ricordiamo agli ascoltatori di provincia che cercheranno di farsi belli con i fiorentini al mare oppure anche dopo, ricordatevi di essere stati al Nano Verde, cercatelo su YouTube, guardate su internet, così sembrerete anche credibili. Ringraziamo Laura per questa pillola di fiorentinità in vacanza. Laura, grazie. Prego. E grazie naturalmente a Radio Big World e ai suoi ascoltatori. E dunque vi rimandiamo alla prossima fiorentinata. Olè!